2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Ci potete raggiungere scrivendo una bella email a 2024, quindi 2024@radio24.it. Naturalmente mi trovate anche su Facebook, su Twitter, basta cercare Enrico Pagliarini. Bentornati ai nostri ascoltatori fedeli che ogni settimana seguono 2024, oppure benvenuti a tutti quelli che non ci conoscono. Si parla di veicoli automatici, si parla di automazione in molti settori, anche in quello delle navi. Allora, questa settimana c'è stato un convegno ad Amsterdam molto interessante. Ci sarei voluto andare, ma non è che si può essere ovunque. Allora, si è parlato di navi autonome e anche a controllo remoto. Oscar Levander, che è vicepresidente per l'innovazione della divisione marina della Rolls-Royce, ha detto: non è una questione di se, ma di quando, perché le tecnologie che servono per rendere le navi realmente a guida remota, oppure anche a guida autonoma, sono già realtà. Levander ha parlato di un progetto condiviso nell'industria, di cui Rolls-Royce è capofila, per arrivare alla produzione di navi a controllo remoto e autonome in servizio commerciale entro la fine del decennio. Quindi stiamo parlando di pochissimi anni. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. La Cina ha consolidato e confermato la propria leadership nei supercomputer. Secondo la classifica Top 500, dove sono elencati i 500 calcolatori più potenti al mondo, per la prima volta il nuovo gigante, pensate, è stato costruito solo con processori made in China, indicando che la Cina si sta affrancando dagli Stati Uniti per una delle componenti più sofisticate come la CPU, cioè il processore dove Intel domina il mercato, ma che il Congresso degli Stati Uniti dallo scorso anno ha vietato di vendere alla Cina, naturalmente nella fascia alta del mercato, non parliamo di tutti i processori, però quelli per i supercalcolatori sono vietati, cioè la vendita alla Cina è vietata. Anche il supercomputer numero 2 al mondo è cinese, il terzo è americano, ma questo nuovo cinese che è stato piazzato al numero 1 della classifica è 5 volte più potente del terzo americano. Il primo supercomputer italiano invece è quello dell'ENI, inaugurato un paio di anni fa, il nuovo centro di elaborazione dati dell'ENI, che è posizionato al numero 22. C'è una relazione, se non strettissima ma comunque abbastanza stretta, tra la capacità di calcolo a disposizione di un paese e la competitività del paese, del sistema industriale del paese. Il New York Times ha confermato l'intenzione di lanciare un abbonamento all'edizione digitale privo di pubblicità, ovviamente ad un prezzo superiore alla sottoscrizione standard. Questo abbonamento è una delle risposte al crescente uso degli ad blocker, cioè i filtri anti-pubblicità. La gente non vuole vedere pubblicità. Ovviamente una quota parte di questi non vogliono vedere la pubblicità senza pagare nulla, ma chi invece non vuole la pubblicità ma è disposto a pagare qualche cosa in più, questa è sicuramente una proposta. Secondo una ricerca di Ovum, gli editori hanno perso a livello globale 24 miliardi di dollari di entrate lo scorso anno a causa di questi software che bloccano la pubblicità sui siti internet, sulle applicazioni. Secondo altri calcoli, nel 2016 questi 24 miliardi potrebbero salire a 40 miliardi. Un gruppo di studenti svizzeri di ingegneria ha costruito un'auto elettrica da competizione che ha segnato il nuovo record di accelerazione di un veicolo elettrico. L'auto è passata da 0 a 100 km all'ora in 1,513 secondi dal precedente record di 1,779 secondi registrato dall'Università di Stoccarda. Per raggiungere questa velocità sono bastati 30 metri. Tutto questo anche perché l'auto pesa appena 168 kg. A proposito di auto elettriche, Enel ha presentato un piano per agevolare l'acquisto di auto elettriche per i dipendenti e anche che entro quest'anno saranno installate 10.000 colonnine di ricarica sulla rete autostradale. E sempre nel capitolo propulsione elettrica, da registrare che Solar Impulse 2, l'aereo che va ad energia solare, ha completato la traversata dell'Atlantico dopo quasi 3 giorni di volo da New York atterrando a Siviglia. Questa era la 15ª tappa di un viaggio iniziato il 9 marzo 2015 da Abu Dhabi. Adesso parliamo di pagamenti in mobilità. SatisPay, che è una delle più innovative app per pagamenti mobili fra utenti e anche in una rete di esercenti abbastanza diffusa, almeno al nord Italia, a Milano, in alcune altre città, si può pagare tranquillamente un caffè, una cena e altri prodotti. Allora, SatisPay ha annunciato la compatibilità con tutti i POS di Ingenico, che sono i più diffusi sul mercato. Quando pagate su un POS guardate la marca, e molto spesso troverete la marca Ingenico, ce ne sono 1,7 milioni in tutta Italia. Allora, però non tutti saranno abilitati al pagamento con SatisPay, per adesso ne verranno attivati 83.000, cioè tutti quelli che usano il circuito del credito cooperativo attraverso i canali di Icrea Banca. Parliamo di TV in streaming, un mercato che cresce in tutto il mondo, tanto che Sky ha deciso di trasformare la propria offerta online italiana utilizzando il brand già usato in Gran Bretagna, che adesso diventa un brand globale, ovvero Now TV. Manca ancora l'HD, manca ancora un'app per smartphone e la compatibilità con Apple TV e Chromecast, che sono state annunciate per i prossimi mesi, ma è sicuramente un segnale della competizione in un mercato dove Netflix sta trainando l'innovazione. La scorsa settimana avevo accennato alla conferenza dedicata agli sviluppatori di Apple. Questa settimana ne riparliamo, perché con noi Luca Salvioli, che è appena tornato dagli Stati Uniti. Luca, bentornato a 2024, ciao. Grazie Enrico, un saluto a tutti. Allora, tu sei tornato da poco da San Francisco, dove la scorsa settimana c'è stata questa ormai tradizionale, diciamo che Apple conclude le conferenze per gli sviluppatori della stagione, grosso modo primavera-estate. Esatto. Sono tutti grandi produttori e da lì vengono annunciate alcune novità. Allora, alcune novità le vedremo dall'autunno, quando arriveranno i prodotti veri e propri. I prodotti, diciamo. Esatto. E l'iPhone 7, giusto? Assolutamente. Quello atteso, diciamo, per settembre, la presentazione ottobre. Perfetto. Quindi alcune novità riguardano i sistemi operativi e gli sviluppatori possono già utilizzarli. Esatto. Ci sono, insomma, già cose note. Però ci sono alcuni dettagli importanti che ci raccontano come stanno cambiando come sta cambiando la strategia di Apple, e che ci dicono anche qualcosa sul mercato. Assolutamente. Partiamo dai sistemi operativi. Esatto. Prima ancora colpisce il fatto che questa conferenza degli sviluppatori non sono stati presentate novità hardware, perché ogni volta c'è una qualche sorpresa, un Mac. Questa volta niente hardware, molto software. Software. Mm. E qua entriamo nel momento. Perché il momento di Apple è un momento, se si vedono anche le ultime trimestrali, di, diciamo, rallentamento nelle vendite dell'iPhone, che è il prodotto assolutamente di punta, vale una altissima percentuale dei ricavi dell'azienda. La gallina dalle uova d'oro. Esatto. Perché ricordiamo una cosa importante, Apple mantiene prezzi piuttosto elevati, grandissima, altissima marginalità, che è anche uno dei motivi per cui la quota di mercato rispetto ad Android è molto più bassa. Però chi vende Android praticamente non ci guadagna niente, cioè, di fatto ci guadagna Google, perché c'è una grande differenza. Esatto, invece Apple guadagna un sacco di soldi. Esatto. E rallentano le vendite di iPhone, anche iPad e Mac qualche difficoltà alcuni l'hanno avuta, mentre le categorie che stanno crescendo sono quelle di nuovi prodotti come Apple Watch, che comunque qualche numero non clamoroso ma interessante l'ha messo a segno, ma in particolare la divisione software e servizi. Lì dentro ci sono i cloud, le app, tutto quello che appunto attiene al software, che è un pezzo pregiato del mondo Apple, no? Si parla sempre dell'ecosistema proprio perché loro sul software si sono sempre distinti dagli altri che appunto usano Android. In questo caso loro hanno messo mano a tutti e quattro i sistemi operativi, perché oramai c'è iOS, quindi telefoni, macOS, ed è la prima novità perché si chiamava OS X, adesso c'è la inizia con Mac, quindi appunto quello dei computer portatili, poi c'è tvOS per la televisione, l'Apple TV, e infine watchOS, Apple Watch. Loro hanno messo mano a tutti questi sistemi operativi con una grande differenza iniziale che riguarda il modello di business, soprattutto per le app, perché tradizionalmente il modello di business dell'App Store per gli sviluppatori prevede il fatto che il 30% rimanga a Apple delle app vendute e il 70% vada agli sviluppatori. La prima novità è questa, cioè le app che prevedono un abbonamento che va oltre l'anno possono beneficiare, diciamo così, di uno sconto, perché a Apple rimane il 15% non più il 30%, e allo sviluppatore dunque l'85% non il 70%. Quindi lo sviluppatore è, e per sviluppatore intendiamo anche aziende, come le potrebbe aziende, essere il Sole 24 Ore, anche gli editori assolutamente sono interessati da questo, è fortemente incentivato a creare abbonamenti, mantenere la fedeltà del cliente, insomma. Esatto, quindi questa è una prima mossa che è arrivata 2 o 3 giorni prima della conferenza dei sviluppatori, ma è molto importante, anche perché il mercato delle app ha raggiunto una certa maturità, sono usciti dei report che fotografano il fatto che non c'è più il boom di 8 anni fa, ovviamente, perché hanno solo 8 anni le app, ma sembrano già vecchie. Incredibile, sì sì. Quindi soprattutto negli Stati Uniti e soprattutto per le app principali, Facebook eccetera, c'è un rallentamento, crescono Uber, Snapchat, quelle un po' nuove, però c'è sicuramente un fenomeno di maturità e soprattutto gli utenti tendono a utilizzarne poche nelle mani di colossi della Silicon Valley tendenzialmente. Questo è un altro grande problema, perché uno si potrebbe domandare come faccio a fare un'app che venga utilizzata, visto che poi alla fine vengono utilizzate prevalentemente quelle dei grandi colossi. Bravo. E infatti l'App Store introduce anche, apre all'ipotesi di sponsorizzazione, di pubblicizzare le app all'interno dell'App Store, proprio per fare in modo che, e migliorare comunque la ricerca, in modo tale che la serendipity, quindi la scoperta di app che non siano quelle tradizionali, venga facilitata. Quindi questo è un problema e si cerca di risolverlo. Esatto. Quindi questa, diciamo, è una prima risposta. La seconda, che per Apple, per chi segue Apple da tempo, è rilevante come novità, è il fatto che Apple ha messo nelle mani degli sviluppatori dei pezzi, diciamo, pregiati del suo software, in particolare i messaggi, l'iMessage, le mappe e Siri, quindi i comandi vocali di Siri, sono stati messi nelle mani degli sviluppatori, nel senso che gli hanno dato la possibilità di integrare dei pezzi di questo software, senza entrare troppo in tecnicismi, all'interno delle applicazioni. Questo vuol dire che, ad esempio, se vorrò chiamare un'auto con Uber, potrò dirlo con Siri, quindi chiamami un Uber in 5 minuti. Perché le due app quindi possono essere connesse, collegate. Esatto. Può utilizzare la funzione comando vocale di Apple, la può usare anche l'app Uber. Oppure all'interno delle mappe si possono vedere, rifaccio l'esempio di Uber, ma ad esempio quelle macchine che si muovono e le prenoti all'interno della mappa. All'interno dei messaggi, i messaggi diventano una vera e propria piattaforma, quindi puoi comprare, puoi fare una transazione economica, ma anche in gruppo. C'era un'applicazione che ha mostrato l'esempio di 4 amici che organizzano una pausa pranzo e all'interno mettono anche il link del ristorante dove vogliono andare e fanno la prenotazione del menu e chiudono la transazione all'interno. Con un'app magari del ristorante, esatto. Oppure una di quelle app che che però riesce a entrare nella piattaforma e fa in modo che tu non debba uscire dei messaggi e rientrarci. Sì, sì, sì. Quindi, diciamo, lo sforzo generale è di rendere l'utilizzo del software ancora più intelligente e in questo senso aperto per l'utente. Certo, questa apertura è tipica del mondo Android invece. Sì, sì, soprattutto storicamente. Pensa che addirittura quando Steve Jobs lanciò il primo iPhone 8 anni fa, non inserì l'App Store nel primo modello, era il 2007, anzi lui voleva che gli sviluppatori facessero web app e quindi usassero il browser Safari per fare dei siti un po' più robusti. Facebook ad esempio fece subito una web app, ma l'esperienza d'uso era tremenda rispetto a quello che poi sarebbero state le app. Anche perché Steve Jobs aveva paura che avrebbe perso il controllo della piattaforma aprendosi troppo a terze parti, che in questo caso sono quelli che fanno le app. È riuscito in questo modo ad arrivare, diciamo, all'estate del 2008, quando invece poi però l'App Store è stato aperto, però prima di arrivare a quello voleva molte garanzie sul controllo. Infatti anche gli sviluppatori dicono sempre: se devo sviluppare per Apple ho dei criteri molto rigidi entro cui stare, per Android è molto diverso. Questo però ha garantito a Apple di distinguersi su una usabilità delle app che è obiettivamente diversa. Certo, e comunque collegato a questo, a quello che stai dicendo, ricordiamo questo, appunto, non dico fallimento, però questa promessa mancata delle web app. Per tanto tempo, se detto, io mi ricordo alcune fiere internazionali in cui si diceva: questo sarà l'anno delle web app. E in realtà invece oggi il nostro mondo è legato ancora alle app che si installano sul sì. Telefono. Sì, permettono un'esperienza d'uso ancora maggiore, in particolare ci sono anche poi l'integrazione con l'hardware, le notifiche eccetera, rendono più veloce l'utilizzo. C'è chi ci ha creduto per tempo, abbiamo citato gli editori prima, Financial Times dall'inizio ha una web app. È vero, e l'ha sì, fatto sì. Proprio per non passare dall'App Store e quindi non dover dividere i ricavi, spartire i ricavi con Apple. Certo, questo è un discorso molto interessante. Luca, grazie e ci risentiamo presto. Grazie. Luca Salvioli è Innovation Editor, comunque uno dei giornalisti che si occupa assieme a me all'interno del gruppo 24 ore, Sole 24 ore di tecnologia. Il mercato dello smart manufacturing, chiamata anche Industria 4.0, Fabbrica 4.0, Industry 4.0, insomma ci sono vari modi per chiamare questo fenomeno che sfrutta l'innovazione tecnologica digitale per trasformare il modo con cui vengono prodotti gli oggetti che utilizziamo tutti i giorni, oppure anche le parti di questi oggetti. Però questo mercato crescerà quest'anno in Italia del 20%, vale già oggi 1,2 miliardi di euro ed è trainato in particolare dalle grandi aziende, in particolare di macchinarie e dell'automotive. Secondo l'osservatorio Smart Manufacturing della School of Management del Politecnico di Milano, la maggior parte delle applicazioni riguarda la Internet of Things, la Internet degli oggetti, e questo, se vogliamo, è un piccolo problema. Cioè, trasformare grazie alla tecnologia un'azienda non significa solo mettere un po' di sensori, raccogliere dati, ma significa avere una visione molto più allargata. Sicuramente non è un processo semplice. Significa essere capaci di analizzare quei dati per estrarre valore, riuscire a digitalizzare l'intero processo, non solo della produzione, ma prima della produzione e dopo la produzione. Un altro aspetto che preoccupa, messo in evidenza dal rapporto, è che il 38% delle imprese non sa cosa sia lo smart manufacturing. Però c'è anche un dato positivo e tutto sommato gli esperti che hanno redatto questo rapporto dicono di essere ottimista. Comunque il dato positivo è che un terzo delle imprese ha già avviato tre o più progetti utilizzando tecnologie digitali innovative per trasformare la propria produzione industriale. E questa è sicuramente una cosa positiva. Tra le altre cose positive, tutto questo fenomeno fa parlare di tecnologia ai politici, che non tanto spesso parlano di tecnologia, a meno che ci sia uno competente, tipo Stefano Quintarelli, che saluto. Stefano, bentornato a 2024. Grazie Enrico, ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori. Per chi non conosce Stefano Quintarelli, oltre che in questa fase della vita essere un deputato alla Camera dei Deputati, è stato uno dei pionieri della rete internet, si è occupato di economia digitale per tanto tempo come imprenditore, come manager, e nel poco tempo che tu, forse di notte, che hai durante la tua attività di deputato e anche in giro per l'Italia, hai da poco scritto un libro che ci racconta come gestire, o meglio, come dice il titolo, come costruire il domani, che è una cosa piuttosto complicata, anche perché uno potrebbe pensare ma il domani arriva a prescindere da quello che noi facciamo. In realtà molte delle conseguenze che creeranno il futuro sono proprio realizzate oggi. Dimmi, sì, dico una cosa su questo, che come dice Emmett Brown, il futuro non è ancora scritto, dipende da come lo scriveremo noi. Esatto. Ti faccio subito una domanda, visto che siamo in un gruppo dove c'è una radio, dove c'è un giornale, dove c'è anche conosco un sito. Conosco abbastanza bene, come ricordi. Ecco, che fine facciamo? Quale sarà il futuro? Visto che tu hai una parte di questo libro che è dedicata proprio a alcune previsioni, il futuro del... puntini puntini, il futuro del nostro gruppo? Adesso non del nostro in particolare. Beh, allora, qui gioco in casa perché avendo fatto il direttore generale dell'area digital del gruppo 24 ore per un po', conosco bene più o meno tutto l'ambiente. Il libro ha una parte che spiega inizialmente le regole base per capire le grandi trasformazioni. Poi ci arriviamo. E poi sulla base di queste regole base si lancia a fare delle previsioni. Ma le previsioni sono diverse adesso perché evidentemente c'è un tema... Beh, intanto cominciamo a dire che l'Italia è una società particolarmente sfilacciata, nel senso che ci sono persone che vivono ancora nel XX secolo e persone che vivono in un XXI secolo, per le quali, per le prime, sembra che vivano nella fantascienza. Quindi il fatto che comunque ci sia una grossa fetta di popolazione che ancora vive come se fossimo nel XX secolo, in qualche modo dà una garanzia di un periodo di accadimento di fenomeni, di evoluzione di fenomeni, che lascia dei tempi lunghi, sufficientemente lunghi per adattarsi. Ciò detto, è indubbio che l'abbassamento dei costi dell'elettronica, i collegamenti always on alla rete, i collegamenti permanenti alla rete hanno abbassato il costo di produzione, di diffusione delle informazioni. Questo fa diminuire la disponibilità a pagare da parte dei lettori, e quindi una delle due fonti di ricavo della parte dei quotidiani è destinata a contrarsi, si sta contraendo e continuerà a farlo. Altrettanto, visto che il costo di variabili sono nulli, il canale di ritorno esiste sul digitale ma non esiste sulla carta, nel mercato dell'attenzione dell'utente, chi gestisce l'attenzione dell'utente online ha un vantaggio in termini di costo rispetto a chi lo gestisce offline. Conseguentemente il prezzo della pubblicità, che una volta veniva formato dall'editore, da chi offre il contenuto, adesso invece passa, la formazione del prezzo della pubblicità passa alla domanda, cioè all'inserzionista, e questo naturalmente mette sotto pressione anche i ricavi pubblicitari, per cui alla fine i gruppi editoriali devono cercare di integrare i ricavi tradizionali da diffusione, da pubblicità, con ricavi da altre fonti. La radio è un mezzo che resisterà abbastanza, perché i cicli di aggiornamento delle automobili sono molto lunghi, credo che l'età media degli automobili in Europa sia tipo 25 anni, adesso in Italia magari è meno, però quindi c'è un tempo di aggiornamento molto lungo. Quindi la radio è un mezzo che regge, reggono anche i libri per una questione di luce riflessa e luce emessa, la luce riflessa della carta rispetto alla luce emessa dagli schermi, quindi un fatto di ergonomia. Quelli sono i due settori editoriali tradizionali che resistono meglio rispetto al futuro. Tutte queste cose devono essere integrate con altra forma di integrazione di ricavi, e l'editore deve diventare colui che monetizza l'attenzione del cliente. E ci sono alcuni gruppi internazionali che lo stanno facendo molto bene, Schibsted in Svezia, Axel Springer in Germania sono degli esempi. Che comunque è una cosa molto complicata. Se si riuscirà a far pagare con i micropagamenti l'informazione online? Il costo della transazione rischia di essere superiore rispetto al costo del bene transato. Quindi questo ormai non vale più niente l'informazione. L'informazione di per sé è difficile da monetizzare in quel modo, il ricavo pubblicitario ha decisamente portato a un livello che è estremamente basso, soprattutto se consideriamo che siamo in Italia, dove abbiamo una percentuale di utenti che non è così elevata, abbiamo contenuti solo in italiano, quindi il target è ridotto, insomma ci sono tutta una serie di complicazioni. È pensabile a delle forme di abbonamento, questo sì, soprattutto per categorie di contenuti che sono funzionali, che diventano strumenti di lavoro, che è un altro dei vantaggi del gruppo 24 ore, no? Certo. Dove tanta gente compra perché il Sole è uno strumento di lavoro. Certo. Poi torneremo a parlare di il domani di qualcosa, anche perché ci sono settori dove il domani sarà molto molto diverso rispetto all'oggi, forse quello dell'informazione che cambieranno le dinamiche con cui vengono erogati i contenuti, ma i contenuti sono contenuti. Beh sì, non però diciamo d'accordo. No, ci saranno delle ulteriori innovazioni, forse ti ricorderai quando avevamo fatto le prove con Audio Flash qua al Sole, con i contenuti generati automaticamente, questo la facevamo 3-4 anni fa, avevamo cominciato a generare dei contenuti in modo automatico, questo continuerà a svilupparsi. Sia contenuti testuali, ma anche poi contenuti testuali parlati, letti, quindi queste cose continueranno a svilupparsi, ambiti ristretti, di nicchia, però una parte di contenuti molto ripetitivi, la chiave è la ripetitività, le cose dove è richiesta efficienza saranno dominate dall'intelligenza artificiale, le cose dove è richiesta creatività saranno ancora appannaggio degli umani. Certo. Il problema è che il mercato è molto limitato. Esatto. Andando a pagina, saltando a pagina 1, comunque nelle prime pagine, tu metti subito, a proposito di regole importanti da sapere, da conoscere per capire come si trasforma questo mondo, fai subito un parallelo tra il mondo fisico, il mondo quello reale, materiale, e quello immateriale che sta crescendo da ormai una quindicina d'anni, ma soprattutto cresce ad una velocità molto difficile da controllare. È così. Allora, cominciamo col dire che il vero fenomeno, la democratizzazione dell'accesso a internet, avviene a partire dal 2008 con la diffusione di Android, no? E l'esplosione degli smartphone, perché prima erano le persone che erano in università che usavano internet, e per un periodo erano pochi, fino ad arrivare a tutti quelli che lavoravano in università, poi la gente che lavorava in azienda, e da lì da pochi a tutti quelli che lavoravano in azienda, e poi con gli smartphone si è andati oltre il computer e si è arrivati da poche persone a tutte le persone nella fascia 16. Quindi anche nella fase della DSL comunque erano poche. Erano decisamente poche, sì sì, assolutamente. La DSL, la cosa che ha fatto l'esplosione, che ha determinato l'esplosione, è il mobile, perché il mobile ha portato delle penetrazioni In Germania nella fascia 16-65 c'è il 94% della popolazione, in Gran Bretagna, nel Regno Unito è il 93%, in Italia è il 73% in quella fascia, che è la fascia commercialmente interessante. Quindi questa è la cosa che ha determinato l'esplosione, quindi lo sviluppo dell'elettronica, sviluppo di terminali mobili, internet mobile e internet a tutti. A tutti sempre, perché poi ci sono delle indagini che dicono che uno sta collegato sempre o molte volte al giorno nel 90% delle persone, quindi è una cosa che è diventata, cioè il device mobile sta diventando la principale interfaccia per le relazioni sociali, e questo è abbastanza intuibile, Facebook, Twitter, eccetera, soprattutto Facebook, ed economiche delle persone, quindi Amazon, la ricerca di viaggi, l'acquisto di qualunque cosa. Quindi questo è un fatto decisamente nuovo, perché, ripeto, è nato 8 anni fa, cioè nel tempo che un bambino nasce e va in seconda elementare. Oggi più di 1,5 miliardi di persone, cioè più del doppio della popolazione di Nord America ed Europa messi assieme, più del doppio nel periodo che uno va in seconda elementare, usano Android quotidianamente. Quindi è un fenomeno per cui guardare al passato non è più una guida per il futuro. E qui il tema è che tutta questa nuova intermediazione, che prima era un'intermediazione fatta in un mondo materiale, adesso viene fatta in modo immateriale, e le regole del gioco sono completamente diverse, perché nel materiale produrre costa, riprodurre costa, trasferire costa, trasferire richiede tempo, immagazzinare costa, la manipolazione la fanno gli umani, sono tutte cose ovvie che sappiamo. Nell'immateriale produrre costa, ma molto poco, riprodurre non costa, trasferire non costa, immagazzinare non costa. Quando dico non costa, tendo a dire che ha un costo, che costa molto ha un poco, costo marginale, che tende a zero progressivamente. E archiviare non costa, e quindi succede che, non so, prima i biglietti aerei venivano, le tratte aeree, i prezzi venivano fissati da un anno all'altro e distribuiti su libroni. Quando poi li mettiamo online, visto che il processing ha un costo nullo, la diffusione ha un costo nullo, fai i biglietti in tempo reale, insomma, vari prezzi in tempo reale. Prima gli aerei viaggiavano vuoti, adesso viaggiano pieni. Prima andare in un posto costava moltissimo, adesso costa poco. Non so, ci sono mille esempi. Lo scarabeo fatto dal Mattel prima doveva essere fatto di plastica, con tutti i costi associati, la distribuzione, logistica, la copia commissione, i venditori, gli ordini fatti a luglio per i pezzi da dare a Natale. Tutto finito. E adesso la Ethermax fa 100 milioni di euro con due giochini, e così, e sono persone che stanno uno in Argentina e uno a Madrid. Quindi il mondo diventa un punto, che vuol dire competizione da tutto il mondo, ma anche la possibilità di competere in tutto il mondo. Quindi sono materiale e immateriale, sono due robe completamente diverse. E li chiamo materiale e immateriale perché non sono virtuali, è una cosa molto reale, come i soldi che sono sul nostro conto corrente sono soldi reali, solo che non sono materiali. Quindi per me non è reale o virtuale, è sempre reale, materiale o immateriale. E poi non mi piace neanche chiamarli mondi alternativi, perché in realtà queste due caratteristiche sono presenti sempre, cioè c'è sempre una parte di materialità, o quasi sempre, e una parte di immaterialità. Non sono alternative, come la lunghezza non è alternativa alla larghezza, per cui parlo di dimensioni. Stefano, adesso ci fermiamo per qualche minuto, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, poi proseguiamo. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Aggiungete anche Facebook e Twitter, le due piattaforme che utilizziamo per comunicare con i nostri ascoltatori. Ricordate che questo programma è disponibile in podcast, la nuova modalità di ascoltare la radio, anzi sarà secondo me una buona parte della radio del futuro, on demand, personale, soprattutto quando volete voi, anche a pezzetti durante la settimana. Basta scaricare una delle tantissime applicazioni disponibili sugli smartphone per scaricare il nostro programma, e poi basta cercare 2024, e all'interno di 2024 tutte le nostre interviste sono in versione integrale. Dunque, tra poco parleremo di un progetto molto interessante, molto importante, della fondazione Vodafone, realizzata in collaborazione con il Sole 24 Ore, che si chiama Digital for Social, il digitale per il settore sociale, per il terzo settore. Adesso è con noi Stefano Quintarelli, stiamo parlando di Costruire il Domani, questo libro che Stefano ha realizzato, scritto, e che trovate anche su Shopping 24, visto che è stato pubblicato dal Sole 24 Ore. Dunque Stefano, tutte queste che sono grandissime opportunità per le aziende, per i cittadini, per la pubblica amministrazione. Stanno anche creando dei colossi giganteschi, mi verrebbe da dire, molte opportunità per pochi piuttosto che molte opportunità per molti. Sì, allora diciamo che tutto questo è il prodotto di un eccezionale sforzo e lungimiranza di delle regole che sono state definite a partire dagli inizio degli anni 90, che hanno, in cui la politica ha detto dobbiamo avere un modello di sviluppo che privilegi la società dell'informazione, chi è più anziano come me se li ricorda, perché altrimenti l'impatto ambientale di un modello di sviluppo basato sulla materialità ammazza il pianeta. Questa cosa ha avuto un grande successo. Sono state scelte un insieme di regole, una cosa che perché non è stata scelta è stata di introdurre delle regole pro-competitive, cioè a favore della concorrenza, nel senso che ci sono tante regole, ma non sulla contendibilità degli utenti. Faccio un esempio, noi per i mutui abbiamo la possibilità di spostare il mutuo da una banca all'altra, garantita dalla legge. Per l'operatore telefonico lo stesso, per le superfici dei negozi abbiamo il tema delle licenze e via dicendo. Cioè abbiamo tutta una serie di regolamentazioni a tutela del consumatore e a tutela della concorrenza che nella parte, diciamo, nel modello immateriale è stato deciso in questo primo periodo di non introdurre. Adesso questa è una riflessione che si sta facendo in Europa, se non sia il caso di introdurre qualche meccanismo di regola pro-competitiva tipo, e di tutela. Cosa potrebbe, fammi un esempio di cosa, la posta elettronica? La posta elettronica è un bel esempio. La posta elettronica è nata con un modello competitivo per cui uno fa un servizio, lo eroga, mette sul suo proprio server e ce la si gioca sulla qualità del client e del server, no? Se oggi inventassimo la posta elettronica la faremmo come WhatsApp, un unico fornitore, un'unica roba, se vuoi parlare con me devi usare quel servizio. Ma la posta elettronica è nata in un'epoca di internet pre-commerciale, no? Quindi è nata in un ambito universitario dove non c'era una tensione a fare quattrini e quello lì è un modello dove era più difficile fare quattrini ed era appunto pro-competitivo. Invece una cosa la WhatsApp è una cosa chiusa, verticale e quello favorisce la nascita di colossi, quindi intercettazione di valore da parte di un numero limitato di soggetti. L'80% dei soldi pubblicitari su internet al mondo vanno a due società e questo è un dato, che sono Google e Facebook. Sì. E come si fa? No, appunto ci possono essere delle regole. Per esempio io ho fatto una proposta di legge che prevede all'articolo 4 il diritto per l'utente di installare il software che vuole sul suo dispositivo prendendolo da qualunque sorgente e disinstallare il software che non gli piace. Questa è una cosa che era ovvia a tutti noi sui computer, scarichi il software dove vuoi, non ti piace, lo togli, ma non è così sui dispositivi mobili, sì. Che sono la vera interfaccia utente della dimensione immateriale, no? Quindi questa cosa qui, se approvata, cioè non se approvata, è già stata approvata diverse volte, se arriverà in fondo, quando arriverà in fondo, non mettiamo dei se, è solo una questione di tempo, consentirà all'utente una libertà di introdurre un po' di concorrenza nel mercato degli app store. C'è stato, so che in Portogallo stanno facendo, copiando la cosa, perché ci sono degli app store locali che vogliono fare, che vedono questa cosa e la stanno spingendo. E questo è un tema, no? Altre cose possono riguardare l'interoperabilità, no? L'interoperabilità, il fatto che io possa mandare un messaggio da una persona a un'altra usando dei client diversi. Quindi WhatsApp e Telegram? Per esempio, ma non solo, no? La interoperabilità dei marketplace, perché io se faccio un marketplace specializzato, che so, in prodotti sanitari, non posso interconnettermi con la base di clienti di eBay, ad esempio, e quindi offrire dal mio marketplace ai clienti di eBay, pagando a eBay un prezzo per il fatto ogni volta che c'è una transazione, perché quello mi mette a disposizione i suoi utenti, e altrettanto invece incassando una... Ecco, e queste cose devono essere nella tua visione devono essere, o forse l'unica soluzione, obbligarle per legge. Ma diciamo che alcuni principi vanno codificati, poi chiaramente c'è il tema delle norme antitrust. Le norme antitrust sanzionano i monopoli quando si comportano male, non chi costituisce una posizione, determinate tecniche per costituire una posizione di monopolio. Quindi sicuramente vanno codificate e vanno determinate le modalità con cui devono essere applicate, non necessariamente per tutti, magari solo per alcuni che godono una posizione dominante, questo potrebbe essere un'idea. Però insomma, su questi temi, questi sono i temi all'ordine del giorno in Europa. C'è stato di recente

adesso produrre in quel modo costerà sempre meno. Cioè senza gli attori? Gli attori, diciamo che avrai dei modelli matematici degli attori e allora tu avrai dei marker per cui il regista farà la sua espressione, il suo movimento, o un attore farà il suo movimento, eccetera. Green screen, riprendi tutto eccetera, e poi ricostruisci su quello. Cioè già oggi sta accadendo, già oggi hai tutte queste scenografie, però sono ancora dei colossal. Questa roba tenderà a diventare da colossal a minimal, e questo si porterà dietro. Allora posso immaginare che ci saranno degli attori che saranno padroni del proprio modello matematico, che venderanno, per cui io ti darò il diritto di sfruttamento del modello. Quindi allora io potrei scaricare l'attore tal dei tali e farmi un film in casa quasi. Se riuscirai a pagare l'attore tal dei tali, perché certo, cioè il, sarà questo, cioè il, l'attore diventa il brand a cui sei affezionato, no? In qualche modo. Sì. E potrebbe voler dire che qualche attore ce lo vedremo per i prossimi 200 anni sempre uguale a se stesso, poi la gente si annoierà. Però sì, il tema è che la produzione tenderà a diventare sempre più digitale e sempre più erogata as a service e con sempre meno intermediari di quelli tradizionali, un'intermediazione diversa fatta da chi gestisce questi sistemi. Bene, noi concludiamo i nostri futuri in questo spazio. Grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie Enrico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Adesso 2024 parliamo di un progetto che è stato realizzato anche in collaborazione con il Sole 24 Ore dalla Fondazione Vodafone Italia, si chiama Digital for Social, e parliamo proprio dell'importanza della tecnologia anche in questo mondo, quello del sociale, del cosiddetto terzo settore. Che cosa può fare la tecnologia per migliorare l'efficienza di questo settore? Con alcuni esempi sono stati premiate 18 idee, 18 progetti, e pensate che le candidature sono state 472, quindi un lungo lavoro per vagliare queste proposte. Saluto Enrico Resmini, che è vicepresidente della Fondazione Vodafone Italia, nonché anche un uomo di tecnologia all'interno del gruppo Vodafone. Benvenuto 2024. Grazie mille. Parliamo di questo progetto per capire qual è l'importanza della tecnologia anche in questo settore. Noi siamo consapevoli, noi che parliamo di tecnologia tutti i giorni, ci occupiamo di tecnologia tutti i giorni, che tutti possono beneficiare dall'uso della tecnologia, in particolare il terzo settore. In che cosa si sono distinti anche questi progetti, da cosa nasce questo progetto Digital for Social? Ma guardi, allora, è chiaro che Vodafone è un'azienda che vive tutti i giorni il digitale, le nuove tecnologie. Vediamo come sta cambiando in maniera incredibile la vita di tutti gli italiani. E quindi è un po' nata la domanda tempo fa, cosa potessimo fare come Fondazione Vodafone per aiutare effettivamente anche il terzo settore a sfruttare queste nuove tecnologie. E come lo possono sfruttare il digitale? Ma sostanzialmente ci sono tre ambiti principali, direi. Il primo è che queste associazioni sul territorio di volontari che fanno delle azioni straordinarie tutti i giorni, tramite queste nuove tecnologie, per esempio, possono aumentare il proprio impatto, la propria efficacia nell'azione che erogano. Pensiamo a, per esempio, in questo caso a tecnologie che si possono utilizzare per la riabilitazione, anche a distanza di chi ha subito particolari patologie neurologiche. Secondo elemento, si possono far conoscere queste associazioni. Si parla sempre dei social network, no? Si parla sempre di come magari le aziende possono farsi pubblicità usando i Facebook o l'online, eccetera. Beh, anche le associazioni che operano sul territorio spesso hanno dei limiti in quello che è il reach, la pervasività della propria azione. Farsi conoscere per poter ricevere supporto, per poter dare una mano a chi ne ha bisogno, anche laddove magari fa più fatica a raggiungerli, in questo le nuove tecnologie possono dare una grande mano. Terzo elemento in cui questo mondo digitale può aiutare tantissimo il sociale è quello che noi chiamiamo la sostenibilità. Molte di queste associazioni oggi fanno ancora uso di fondi che vengono erogati da fondazioni come la nostra, da donatori in giro per l'Italia, per sostenere la propria attività. Beh, se uno pensa al mondo digitale, ad esempio, vengono in mente cose come l'e-commerce. Allora abbiamo visto associazioni che magari si inventano dei portali di e-commerce dove i manufatti artigianali, prodotti magari all'interno di un'associazione che aiuta donne che hanno subito abusi, questi stessi manufatti possono essere rivenduti attraverso dei portali di e-commerce e attraverso i proventi di questo e-commerce sostenere ulteriori posti letto, ulteriori azioni di supporto ad altre donne che ahimè subiscono queste violenze. Quindi un circolo virtuoso di sostenibilità. Ecco, questi sono tre ambiti di digitale e di come il digitale può aiutare il sociale. Da questi 472 progetti che sono arrivati, qual è il vostro giudizio sulle competenze, grado di sensibilità verso il digitale, verso i vantaggi del digitale di queste aziende? Perché sicuramente uno dei motivi per cui sono arrivate molte candidature è che il budget che è stato messo a disposizione è sicuramente un budget molto importante, perché parliamo di circa 2 milioni di euro che vengono poi distribuiti a questi 18 progetti. Però non solo immagino ci sia la ricerca di un finanziamento, c'è anche una sensibilità. Però qual è il grado di maturità di questo terzo settore da quello che siete riusciti a capire voi? Ma intanto inizierei con un'osservazione. Le persone che lavorano nel terzo settore non vivono sulla Luna, vivono in Italia, e come cittadini vivono la pervasività del digitale, di queste nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni. Quasi tutti oramai hanno uno smartphone, quasi tutti usano le app, quasi tutti iniziano a interagire sui social network o a comprare online. Quindi la cosa che effettivamente abbiamo rilevato quando abbiamo lanciato questo bando è stato un fortissimo interesse da parte del terzo settore a saperne di più e a proporre idee. Quindi effettivamente, quando lei diceva abbiamo avuto 470 candidature, questo a fronte di quasi 800 organizzazioni che sono state coinvolte. Quindi in realtà attraverso un roadshow, attraverso le 9 città principali italiane, tante organizzazioni che all'idea di fare qualcosa nel mondo digitale hanno riscoperto nuovo vigore, nuovo interesse per proporci idee e iniziative. Quindi io penso che il digitale faccia, sicuramente sia sentita come una grande opportunità, un elemento di svolta anche nell'attività che queste associazioni fanno tutti i giorni. Poi è chiaro, l'ammontare è significativo, qui siamo andati su un ordine di grandezza nettamente superiore rispetto a quello che tipicamente si vede essere allocato su iniziative simili, no? Tipicamente sono iniziative da 40-50 mila euro, qui abbiamo stanziato una cifra che inizialmente era più bassa, era 1,5 milioni, poi l'abbiamo alzata a 2 milioni proprio perché abbiamo visto un interesse incredibile, abbiamo visto progetti di altissima qualità, abbiamo fatto un'enorme fatica, le assicuro, a selezionare i 18 progetti vincenti, proprio perché era una qualità molto forte, ambiti molto diversi, anche territorialmente distribuiti tra il nord, il centro, il sud, proposti da uomini, da donne, con diverse tipologie di disagio sociale, dall'inclusione degli immigrati alle degenze, le lungodegenze, le terapie fisiche, insomma c'è veramente di tutto. Quindi è stata una bellissima esperienza e che ha sottolineato come effettivamente, come diceva lei, il terzo settore vede nel digitale un grande elemento di svolta, un'opportunità di crescita. Resmini, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e a presto. Grazie a voi, buon lavoro. E così concludiamo questa puntata di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie a tutti quelli che ci scrivono ogni settimana. Non riesco a rispondere proprio a tutti, però ce la metto tutta. A volte però fate delle domande impossibili o comunque molte delle vostre domande richiedono un approfondimento tramite alcuni esperti, quindi non sono in grado di rispondere subito in modo preciso e puntuale. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Utilizzate anche Facebook e anche Twitter, magari potete fare i vostri commenti nella nostra pagina Facebook e soprattutto fate pubblicità 2024, non tanto per il sottoscritto ma soprattutto per gli ospiti, sempre penso, immagino, di buona qualità, e anche perché c'è bisogno della diffusione della cultura digitale. Poi quando uno magari diventa curioso di alcune cose può andarsela a leggere ovunque, ascoltare anche altre cose in giro per il mondo. Bene, ci risentiamo la prossima settimana, sempre attraverso il podcast oppure anche in diretta. Siamo il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13.30 su Radio 24. L'augurio di un buon ascolto con i nostri programmi.